Irrinunciabili presenta Blade Runner, film di Ridley Scott. È il film culto degli anni Ottanta, l'ultimo grande film di fantascienza che non si avvale di computer grafica. Accolto freddamente da critiche pubblico, è diventato un mito. Ispirato dal romanzo Ma gli androidi sognano le pecore elettriche di Philip Dick, la sua estetica è stata fonte di ispirazione per tantissimi film di ambientazione cyberpunk e futuristica. Questo è Blade Runner. Los Angeles, 2019, la città è sporca, cupa. L'urbanizzazione è stata selvaggia. Per le strade si aggira una variegata umanità, anche da un punto di vista etnico. Lo slang della città è una sorta di strano esperanto. Grossi schermi reclamizzano nuove opportunità, in colonne extramondo. È l'essenza più scura di una megalopoli. Abbiamo echi di New York, Mumbai, Shanghai, tutti portati all'eccesso, nella loro chiave più negativa. Lo scenario è a tratti apocalittico, con pioggia quasi perenne e fiammate. Il disordine e il caos che vediamo nelle strade lo troviamo in tutti gli ambienti chiusi, che sia un club o la casa del protagonista. Gli unici ambienti ordinati sono quelli della Tyrell Corporation, la potente corporazione che produce replicanti. La sua sede è una grossa piramide che ricorda quelle dei Maya. Il dottor Tyrell è minuto, con occhiali spessi, incapace di provare emozioni, parla come un manuale ed è fiero del suo lavoro. Un gruppo di replicanti, modello Nexus 6, sono scappati e si sono rifugiati a Los Angeles. La polizia costringe il suo uomo migliore, ormai ritirato, Deckard, interpretato da Harrison Ford, a occuparsi del caso, ritirare i replicanti, ovvero terminarli, ucciderli. Più umano dell'umano è il motto della Tyrell Corporation, come dargli torto? I replicanti sono praticamente indistinguibili da un essere umano. È necessaria una mente acuta e tutta l'esperienza di Deckard per poterli riconoscere, per poter seguire le loro tracce. Iconico è il test di domande a cui Deckard sottopone i presunti replicanti. Tramite uno strumento altamente tecnologico che esamina l'occhio, è possibile, di fronte a domande pensate per suscitare forti emozioni, capire la natura del soggetto, poiché i replicanti avranno improvvise dilatazioni e contrazioni della pupilla, essendo incapaci di gestire le emozioni a causa della mancanza delle esperienze di vita vissuta. L'occhio è un elemento che ritorna più volte nel film, in diverse inquadrature, nel modo in cui il leader dei replicanti uccide le sue vittime, premendo sui bulbi oculari, oppure con l'ossessione che i replicanti hanno per le fotografie, che rappresentano ricordi lontani, anche se gli sono stati impiantati in fase di creazione, per creare un cuscino per il loro vissuto futuro. Tutto questo forse a intendere che negli occhi vi è riflessa l'anima. I replicanti sono stati progettati per avere una vita molto breve, pochi anni. Ognuno ha la sua personalità, ma sono mossi da un unico scopo, ingannare la morte, avere più vita, trovare un modo per rimandare l'inevitabile. Sono come dei bambini, sotto certi punti di vista, capaci di tenerezza, stupore, ma anche di rabbia e violenza. Violenza che sembra una risposta a problemi che non sanno gestire in modo differente. A volte giocano con gli umani, consci del fatto che sono superiori sotto diversi aspetti. Non sono banali macchine, ma repliche dell'uomo, versioni migliori sia fisicamente che dal punto di vista intellettivo. Di contro, i personaggi umani del film sono malandati, trasandati, a volte con problemi fisici, appaiono gracili al cospetto dei replicanti, che invece trasudano fierezza. Infatti il progettista genetico Sebastian mostrerà ammirazione nei loro confronti, li considera perfetti, ma li vede come delle mere creazioni, dei giocattoli. Non gli riconosce una loro dignità. Tanto che Pris, una delle replicanti, interpretata da Deri Hanna, ribatterà: «Io penso, Sebastian, pertanto sono». Nel loro percorso per cercare una soluzione alla morte imminente a cui sono stati condannati dal loro creatore, si lasceranno dietro una scia di sangue. Il loro leader, Roy, uno straordinario Rutherhauer, avrà un duro scontro con Deckard, che culminerà in una delle sequenze più epiche della storia del cinema, caratterizzata da forti allegorie religiose. La figura di Roy è sicuramente la più affascinante. Suoi alcuni monologhi stupendi, in particolare quella finale, entrata nella storia, in parte frutto dello stesso attore, come sua anche l'idea dell'introduzione della colomba bianca in uno dei massimi momenti di pathos, cose che voi umani non potreste immaginarvi. Una tale grandiosità visiva e anche delle emozioni è seguita da una colonna sonora stupenda di Vangelis. Orchestrazioni e sintetizzatori dipingono un tessuto sonoro impossibile da dimenticare. Il genio greco contribuisce in modo determinante all'entrata del film nella storia. Come spesso succede con i capolavori, la sua produzione è stata travagliata. Ridley Scott ha litigato praticamente con chiunque sul set e ha sforato anche il budget. A fine riprese è stato licenziato per poi essere ancora assunto. È presente anche una director cut che cambia sostanzialmente parte del finale, grazie alla celebre sequenza onirica dell'unicorno legata all'origami, aprendo così le porte ad un'altra interpretazione. Vi sono state anche frizioni tra regista e produzione per inserimento o meno di una voce narrante, volta a spiegare l'andamento della trama, perché durante le prime proiezioni di prova parte del pubblico rimase confuso. In tutta la sua infinita bellezza, Blade Runner si interroga su tematiche come la eugenetica, come la clonazione, su cosa ci rende quello che siamo. Il rapporto tra umani e replicanti è caratterizzato da una marcata mancanza di comprensione, ma vivendo e facendo esperienza forse è possibile colmare questa assenza di empatia, da ambo le parti. Buona visione.